inutile suonare, qui non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Il telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai. Ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito. Soli, mangiando un panino in due. Briciole nel letto, soli, ma stretti un po' di più, solo io, solo tu. Il mondo dietro ai vetri sembra un film senza sonoro. E il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi non mi deludi mai. È così che mi vai. Soli, lasciando la luce accesa. Soli, ma guarda nel cuore chi c'è, io e te. Soli, col tempo che si è fermato. Soli, però finalmente noi, solo noi, solo noi. Coi tuoi, il frigo pieno.